col maestro Valentino Corvino del Teatro Comunale di Bologna vorrei parlare di come il premio Alberghini sia effettivamente un percorso che accompagna i ragazzi dal momento in cui si propongono al momento in cui possono anche trovare una collocazione nel mondo della musica. Certo, lo spirito di questo premio sin dall'inizio è sempre stato quello di coinvolgere i ragazzi e accompagnarli sia nel modo in cui li si giudica, il tipo di votazione, così. È una peculiarità specifica di questo premio è il fatto che comunque vengono dati molti consigli da parte dei membri delle commissioni che in genere sono dei concertisti importanti oppure delle istituzioni molto importanti che quindi spiegano ai ragazzi sia nel caso di ottimi piazzamenti che però hanno bisogno di essere accompagnati da qualche spiegazione, da qualche consiglio e sia anche nel caso di fallimenti in cui a volte c'è bisogno di motivare, comunque di incoraggiare i ragazzi, c'è sempre l'accompagnamento del voto con la spiegazione, quindi molte volte i ragazzi, soprattutto quando sono molto giovani, i musicisti hanno bisogno di conferme, hanno bisogno di capire a che punto sono col loro livello di studi e con la loro consapevolezza artistica e quindi noi consapevoli di questo spesso accompagniamo appunto il giudizio con una spiegazione, con un racconto. Poi non solo, i ragazzi vengono coinvolti da Musica Insieme, dal Comunale, ma anche nel caso dell'ensemble Fontana Mix con la parte nuove creatività e composizione, vengono anche scelti per delle esibizioni, vengono scelti per delle pubbliche esecuzioni e quindi anche il fatto di selezionarli e di coinvolgerli in progetti anche professionali a volte, perché per esempio appunto quest'anno uno dei vincitori delle edizioni passate è stato membro dell'ensemble Fontana Mix in una produzione per esempio. Anche questo ovviamente motiva moltissimo i ragazzi, non solo quelli che sono protagonisti di queste scelte, ma anche gli altri, perché vedono che attraverso questo premio hanno un'occasione di presentarsi al mondo della musica in tutte le sue sfaccettature. Quindi questa possibilità viene data dal fatto che c'è una collaborazione tra istituzioni e quindi tra Musica Insieme, il Comunale ed altri che sostengono questo premio. Ovviamente le occasioni si moltiplicano, di questo noi siamo tutti molto contenti, perché il ruolo delle nostre istituzioni è proprio quello di non soltanto di produrre spettacoli e concerti per il pubblico, ma anche di fare da punto di riferimento culturale per le nuove generazioni, quindi insomma anche sia le nuove generazioni intese come pubblico che come artisti, perché senza gli artisti, senza i giovani artisti, diciamo il futuro non è roseo ma è alquanto nero, quindi insomma è in questo modo anche che noi assolviamo la nostra funzione. E come dicevi prima, lavorare in ensemble è per definizione proprio un momento di crescita importante. Certo, perché i ragazzi quando si sono confrontati, i ragazzi vincitori che sono stati coinvolti in progetti con altri musicisti, si sono dovuti confrontare con dei professionisti, sono momenti in cui si testano le proprie capacità e si capisce quanto si può credere nel proprio futuro, si impara, si ricevono consigli, a volte ci si scontra con la realtà anche in maniera un po' dura, perché comunque è un mondo, quello dell'arte performativa è un mondo anche molto duro e molto severo molte volte, quindi anche questo è importante, quindi questa connessione tra lo studio a casa che la maggior parte fanno e poi invece la sua applicazione nel mondo della realtà è fondamentale per i giovani.